Ad alta voce, Elia Shilton legge Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erwinio Pocar. Venne la sera, il sole tramontava e io ripresi a pensare alla mia situazione. La fame mi aggrediva senza riguardi e tra un paio d'ore sarebbe scesa la notte. Dovevo trovare una soluzione finché ero in tempo. I miei pensieri ripresero a circolare intorno alla locanda dalla quale mi avevano cacciato. Non ci volevo ritornare in nessun caso, eppure non potevo fare a meno di ripensarci. A dire il vero, quella donna aveva tutto il diritto di buttarmi fuori. Come potevo pretendere che mi alloggiasse se non pagavo? E poi mi aveva dato anche da mangiare ogni tanto. Persino la sera prima, quando l'avevo provocata, mi aveva offerto due pani col burro. Me li aveva offerti per bontà d'animo, poiché sapeva che di quel pane avevo bisogno. Non avevo dunque alcun motivo di lagnarmi e, seduto su quello scalino, incominciai a chiederle perdono del mio contegno con molta umiltà. Soprattutto mi rammaricavo di essermi dimostrato ingrato verso di lei all'ultimo momento e di averle scagliato in faccia quel biglietto. 10 corone. Fece un fischio. La lettera recapitata dal fattorino, da dove era venuta. Soltanto ora incominciai a pensarci e compresi subito come stavano le cose. Mi sentii male dal dolore e dalla vergogna e, ripetendo alcune volte con voce strozzata i laiali, scottevo la testa. Non avevo deciso il giorno prima di passarle vicino alteramente quando l'avessi incontrata e di mostrarle la massima indifferenza, ed ecco che invece avevo soltanto suscitato la sua grande pietà e l'avevo indotta a quell'elemosina misericordiosa. Ah, la mia umiliazione non aveva tregua, nemmeno di fronte a lei potevo assumere un atteggiamento decente. Affondavo da tutte le parti, dovunque tentassi di muovermi barcollando, cadevo in ginocchio, affondavo sempre più, affogavo nell'ignominia e non mi sarei risollevato mai più. Mai più avevo raggiunto il colmo. Accettare 10 corone di elemosina senza poterle buttare ai piedi dell'offerente sconosciuto, arraffare i soldi dovunque mi fossero offerti e tenerli, pagare con essi l'alloggio per quanto mi fossero odiosi. Ma non potevo procurarmi in nessun altro modo quelle 10 corone. Andare dalla padrona e pregarla di restituirmi quel denaro era certo un'impresa disperata. Eppure ci doveva essere un'altra soluzione. Se avessi pensato a fondo, se mi fossi proprio sforzato e stillato bene il cervello. Perbacco, non si trattava di pensare alla maniera solita, si trattava di mettere in moto tutte le mie capacità per trovare la via di riavere quelle 10 corone. E per arrivarci mi lambiccavo il cervello. Potevano essere le 4. Tra un paio d'ore avrei potuto incontrare il direttore del giornale se fossi riuscito a finire in tempo il mio dramma. Presi immediatamente il manoscritto, mi ci buttai a corpo perduto per scrivere quelle 3 o 4 ultime scene che mi mancavano. Concentrando il pensiero, con la fronte sudata, rilessi tutto il pezzo da principio, ma senza riuscire a fare un passo avanti. Coraggio adesso, avanti, senza superbia, e scrissi alla cieca, scrissi tutto ciò che mi veniva in mente pur di procedere, e procedevo davvero. Mi davo a intendere di avere un altro momento felice. Mentivo a me stesso, mi ingannavo sapendo di ingannarmi e scrivevo come se non avessi bisogno di cercare le parole. Molto bene, ecco la trovata giusta, mormoravo tra me, scrivi. E infine però le battute mi parvero un po' sospette. Erano evidentemente peggiori che nelle prime scene. E poi le parole del monaco non avevano niente a che vedere col Medioevo. Strinsi la matita fra i denti, balzai in piedi, Lacerai il manoscritto foglio per foglio, buttai per terra il cappello e mi misi a calpestarlo. Sono perduto, mormorai fra me, signori, signori, sono perduto, e non dissi altro, continuando a calpestare il cappello. A pochi passi da me c'era una guardia che mi stava a osservare. Stava in mezzo alla strada e non badava ad altro che a me. Quando mi volsi verso di lui, i nostri sguardi si incontrarono. Forse era là da parecchio a guardarmi. Presi il cappello, me lo misi in testa e mi avvicinai a quell'uomo. «Scusate, sapete che ora è?» domandai. Dopo un momento di esitazione, tirò fuori l'orologio, ma senza perdermi di vista. «Sono quasi le 4», rispose. «Bravo!» replicai. «Quasi le 4, perfettamente, vedo che ve ne intendete, mi ricorderò di voi!» E lo piantai lì. Rimase sbalordito. Mi seguì con gli occhi, a bocca aperta, sempre con l'orologio in mano. Quando arrivai vicino all'Hôtel Royal, mi volsi, egli era ancora là, nello stesso atteggiamento, e mi guardava. Ecco, così bisogna trattare questi animali, con la più raffinata faccia tosta. Ne restano impressionati questi bestioni, si spaventano. Ero contento di me, ricominciai a canterellare, tremando dall'agitazione, senza provare alcun dolore, anzi, senza il minimo disagio. Attraversai, leggero come una piuma, tutto il piazzale della stazione e mi sedetti infine sopra una panchina presso la chiesa del Redentore. Non era forse indifferente se rimandavo o non rimandavo quelle 10 corone? Se le avevo ricevute voleva dire che erano mie e che chi le aveva mandate certo non pativa la miseria. Se me le avevano inviate espressamente dovevo pure accettarle. Sarebbe stato sciocco lasciarle al fattorino. Né d'altro canto era opportuno rimandare un biglietto da 10 corone diverso da quello che avevo ricevuto. Dunque non c'era niente da fare. Tentai di prestare attenzione al movimento nel piazzale e di occupare i miei pensieri con cose insignificanti, ma non ci riuscivo. Ripensavo continuamente a quelle 10 corone. Infine strinsi i pugni e dissi inviperito: «Si offenderebbe se le rimandassi il denaro, allora perché dovrei mandarlo?» Non sapevo dunque smettere di credermi superiore a tutto, di scuotere la testa con superbia e dire «no, grazie». Ora capivo dove si andava a finire. Ero di nuovo sul lastrico. Eppure avrei avuto la più bella occasione di conservarmi l'alloggio comodo e caldo. Ma ero stato superbo. Ero scattato alla prima parola e col gran gesto delle 10 corone regalmente distribuite me ne ero andato per la mia strada. Mi sottoposi a un severo giudizio per aver abbandonato l'alloggio e per essere ricaduto in una situazione così disperata. Ma, in fin dei conti, il diavolo poteva portarsi via ogni cosa. Non ero stato io a chiedere quelle 10 corone. Si può dire che non le avevo neanche avute fra le mani e me ne ero sbarazzato subito pagando gente estranea che non avrei riveduto mai più. Così ero fatto, all'occorrenza pagavo fino all'ultimo centesimo e Eli Ali, per quanto la conoscevo, non rimpiangeva certamente il denaro che mi aveva mandato. Perché stavo dunque a torturarmi l'anima? Infine, era il minimo che ella potesse fare, mandarmi 10 corone di quando in quando. Quella povera figliuola era pure innamorata di me, innamorata da morire, e a questo pensiero mi gonfiavo tutto. Senza dubbio quella povera ragazza era innamorata di me. Erano le 5. Mi sentivo svenire per la troppa tensione nervosa e la mia testa ricominciò a ronzare. Con gli occhi fissi e immobili dinanzi a me, guardavo verso la farmacia dell'elefante. La fame mi tormentava crudelmente e io ne soffrivo in modo straziante. Mentre guardavo così davanti a me, mi parve di riconoscere una persona, la venditrice di dolci accanto alla farmacia dell'elefante. Sobbalzai e incominciai a riflettere. Sì, era proprio vero. Era quella stessa donna, dietro lo stesso banchetto, nello stesso posto. Fischiettando e facendo schioccare le dita, mi alzai dalla banchina e mi avviai verso la farmacia. Un po' di serietà, per Bacco. Mi importava poco che fosse denaro del demonio o buon argento norvegese di zecca. Non volevo rendermi ridicolo. Si può morire anche di troppa superbia. Girato l'angolo, andai difilato verso la dolciaia, le sorrisi con un cenno amichevole come fossi un conoscente e scelsi le parole come se quella mia visita fosse la cosa più naturale del mondo. «Buongiorno», dissi. «Non mi riconoscete?» «No», rispose lentamente guardandomi. Sorrisi ancora, come se quella sua negazione fosse uno scherzo, e soggiunsi: «Non vi ricordate che un giorno vi ho dato una manciata di corone? Se ben rammento, allora non dissi neanche una parola. Io faccio sempre così quando si tratta di persone oneste. È superfluo prendere accordi, stipulare, per così dire, un contratto per ogni sciocchezza. Sono io quello che vi ha dato quel denaro». «Ah, guarda, siete stato voi. Sì, sì, a ripensarci, adesso vi riconosco». Per evitare che mi ringraziasse di quel denaro, dissi rapidamente, mentre già sceglievo con gli occhi i commestibili che aveva sul banco: «Ecco, vedete, e adesso sono venuto a prendere i pasticcini». Quella non capiva. «I pasticcini», ripetei. «Ora sono venuto a prenderli. Almeno una parte, la prima rata. Non mi occorrono tutti oggi». «Siete venuto a prendere i pasticcini?» domandò. «Sì, appunto, sono venuto apposta», risposi ridendo forte, come se avesse dovuto capirlo fin dal primo momento. E preso dal banco un dolce, una specie di panino bianco, incominciai a mangiare. La donna si alzò subito e fece istintivamente un gesto come per difendere la merce, osservando che non si aspettava che venissi a rubare la sua roba. «No, davvero!» esclamai. Che brava donna, non c'era che dire. Le era mai capitato di ricevere in consegna una manciata di corone senza che il proprietario venisse a richiederle? No, vero? Ecco dunque, credeva forse che fossero denari rubati perché glieli avevo buttati là in quel modo. Non lo credeva, vero? Brava, meno male. Era molto gentile se perlomeno mi considerava un uomo onesto. Che bel tipo, veramente straordinario. Ma perché le avevo dato quel denaro? E si mise a strillare montando in collera. Le spiegai il motivo parlando con perfetta calma. Dissi che quel modo di fare era una mia consuetudine, perché ero convinto che tutti gli uomini sono buoni. Quando uno mi presentava un contratto o una quietanza, rifiutavo sempre scuotendo il capo e dicendo «No, no, grazie, è proprio così». Il cielo mi era testimone. Ma la donna non mi capiva ancora. E ricorsi ad altri argomenti, parlai con energia dicendo che non volevo sentir sciocchezze. Non le era mai capitato che qualcuno pagasse in anticipo come avevo fatto io? Persone, ben inteso, che se lo potevano permettere, come per esempio i funzionari dei consolati. No, non le era mai capitato. Ma che colpa avevo io se non conosceva quelle forme della vita sociale? All'estero era una cosa comunissima. Non c'era mai stata all'estero. Sfido io, dunque non poteva neanche avere un'opinione su una simile faccenda. E intanto presi qualche altro panino. Ella incominciò a ringhiare. Rifiutò ostinatamente di cedermi un po' di quelle provviste. Anzi, mi strappò di mano un panino e lo rimise sul banchetto. Io mi infuriai, battei un pugno sul banco e minacciai di chiamare la polizia. Non volevo danneggiarla, osservai, ben sapendo che se avessi preso tutto quanto mi spettava, le avrei rovinato la bottega, dato che a suo tempo le avevo consegnato un bel mucchio di quattrini. Ma non volevo prendere tutto. Mi accontentavo di merce per la metà dell'importo e poi non sarei più ritornato, per carità, visto che apparteneva a una simile razza di gente. Infine scelsi alcuni panini e me li diede a un prezzo infame, saranno stati 4 o 5, ed erano valutati il più possibile. Poi mi invitò a prenderli e ad andarmene. Stetti ancora a litigare dicendo che mi imbrogliava di almeno una corona e mi sfruttava con quei prezzi da usuraia. Ma non sapete che per simili bricconate si va in galera? Dio vi faccia la grazia, altrimenti potreste finire in prigione a vita, vecchia carogna. Quella mi buttò ancora un panino e, digrignando i denti, mi disse di andare via. Così mi allontanai. Ora vorrei vedere un'altra bottegaia così poco fidata. Passeggiando per la piazza e divorando i panini, non facevo che discorrere tra me di quella donna e della sua sfacciataggine. Ripetevo le parole che ci eravamo scambiate ed ero convinto di essere molto superiore a lei. Mangiavo i dolci davanti a tutti l'uno dopo l'altro e parlavo a voce alta, e i dolci scomparivano velocemente. Ma per quanto ne ingoiasse, la fame non diminuiva. Ero così vorace che per poco non mangiavo anche l'ultimo pasticcino che fin da principio avevo destinato a quel bimbo laggiù nella Volksmannsgate, a quel bimbo cui l'uomo dalla barba rossa aveva sputato sulla testa. Pensavo continuamente a quel piccolo. Non potevo dimenticare la sua espressione quando era scattato in piedi piangendo, imprecando, e quando quello aveva sputato, aveva alzato gli occhi verso la mia finestra come per vedere se anch'io ridessi di lui. Chissà se l'avrei trovato. Mi affrettai verso la Volksmannsgate, passai vicino al punto dove avevo stracciato il mio dramma, vi trovai ancora molti pezzetti di carta, girai al largo intorno alla guardia che poco prima avevo sbalordito col mio contegno e mi trovai finalmente davanti al gradino dove era stato seduto il piccolo. Non c'era. La strada era quasi deserta. Incominciava ad annottare e non potei rintracciare il bambino. Forse era già rientrato. Posai delicatamente il pasticcino sulla soglia, bussai forte e scappai via. Lo troverà, dicevo tra me. Lo troverà certamente appena esce. E al pensiero che il bambino avrebbe trovato certamente quel dolce, gli occhi mi si inumidirono dalla gioia. Ritornai verso la banchina del porto. Non avevo più fame, ma i dolciumi che avevo inghiottito non mi avevano fatto bene. In testa mi si affollavano di nuovo i pensieri più sfrenati. Se avessi tagliato di nascosto gli ormeggi di una delle navi, se avessi gridato al fuoco allarmando i pompieri. Avvicinatomi all'acqua, trovai una cassetta sulla quale mi sedetti, giungendo le mani. Sentivo nella testa una confusione sempre più tumultuosa, ma non mi muovevo, non facevo nulla per tenermi ritto. Così seduto, fissai lo sguardo sul barcone russo Copegoro. Vidi un uomo appoggiato alla murata sotto la luce del fanale rosso. Mi alzai e gli mandai una voce. Non sapevo neanch'io perché. Non avevo in mente niente di particolare e non mi aspettavo nessuna risposta. Dissi: «Partite stasera, capitano?» «Già, tra non molto», rispose quell'uomo. Parlava svedese, dunque pensai sarà finlandese. «Senta, per caso non avreste bisogno di un uomo?» In quel momento mi sarebbe stato del tutto indifferente ricevere un rifiuto. In genere mi importava poco quale risposta avrei ricevuto. Stavo a guardarlo e aspettavo. «No», rispose, «ci servirebbe un giovane». «Giovane?» Mi alzai, mi tolsi gli occhiali e me li misi in tasca, percorsi la passerella e salii a bordo a grandi passi. «Io non ho mai navigato», osservai, «ma so fare tutto quello che vorrete. Dove siete diretti? Partiamo con un carico di zavorra per Leeds e là carichiamo carbone per Cadice». «Benissimo», esclamai e insistetti perché mi prendesse. «La meta del viaggio poco importa, vedrete che saprò lavorare». Egli stette un po' a guardarmi e a riflettere, poi domandò: «Non siete mai stato in mare?» «No, ma vi ripeto che mi potete affidare qualunque lavoro, sono abituato a tutto». Lui continuò a riflettere Io mi ero già illuso di partire e avevo una gran paura di essere rimandato a terra. «Che cosa pensate, capitano?» domandai infine. «Credetemi, so fare tutto quello che volete, anzi sarei un buono a nulla se non facessi più del lavoro affidatomi. Se occorre, posso fare 2 turni di guardia l'uno dopo l'altro. Io non ne soffro, anzi mi fa bene.» «E sia, proviamo», disse sorridendo alle mie ultime parole. «Se non sarà contento, possiamo separarci in Inghilterra.» «Certo», risposi con gioia, e ripetei che se non rendevo potevamo separarci in Inghilterra. E il capitano mi assegnò il mio compito. Quando fummo al largo, mi rizzai in piedi, sudato e abbattuto dalla febbre, e dissi addio per questa volta alla città, a Cristiania, dove tutte le finestre, ora illuminate, scintillavano. Elia Shilton ha letto Fame di Knut Hamsun, traduzione di Erminio Pocar. A cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.